Eccoci qua, le 21.09, inizia prove tecniche di trasmissione qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa, naturalmente sugli 87.9. Naturalmente con www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di usare lo streaming. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Questo programma domani avrà più che altro la registrazione e la playlist sia su prove tecniche di trasmissione /disorder e sul sito della radio stessa. Allora, salutiamo Marta qui a Roma, qui anche Like Awake, progetto di Dark Ambient qui di Roma. Marco, sempre a Roma. Dalla Sardegna abbiamo invece Maya e Nicola Locci. Ovviamente onnipresente Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Da Udine Lupsi con Lucia Cagliazza. E Ducis in fondo, il buon Antonio Zoviet, anche lui è un musicista come omicidio. Questa è la penultima puntata di questo ciclo 2018-2019, poi chiaramente si tornerà in settembre. E finiamo proprio di conoscere fino in fondo, l'abbiamo fatto fino in fondo, l'ultimo lavoro di Der Blaue Reiter, progetto proveniente dalla Catalogna, da Barcellona, con uno splendido lavoro dal nome United Yet Divided, che come chi ci ha seguito in queste settimane sa che è un album che ha provato a trattare i vari cambiamenti, le varie evoluzioni o devoluzioni o involuzioni che dir si voglia della scena politica europea in tutte le sue manifestazioni, sia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il classico del muro di Berlino, la Guerra Fredda e altre cose tipo la Guerra di Spagna, eccetera. Questa sera il turno proprio del title track United Yet Divided, dedicata proprio al muro di Berlino, e From a Distant World. us vulnerable, where should we search for protection? We will never obey a great power, no matter the language they speak. We are proud independents, or so we believe. Being neutral means you always take a side. It is like a distant world. We would never have to be scared again. Yet here we are, more scared than ever. The far-off world, once in our presence, has now become something not so scary. Looking at us now, where will we be? Will we see that we are one? Or are we just no one? Life would be so much simpler with all of us on one side. And still, in this distant world, we are just distant from each other. Dunque ce lo siamo goduto in queste settimane, in tutta la sua lunghezza, in tutte le sue 8 tracce, questo ultimo lavoro di Der Blaue Reiter. Esattamente il sesto lavoro, United Yet Divided, che esce per la Dark Vinyl Records. E questa sera ci siamo ascoltati la title track, letteralmente da brivido. E poi la traccia finale, From a Distant World, da un mondo distante. Curiosità vuole che il vinile invece possegga due tracce finali diverse rispetto al CD. tutte le musiche scritte, registrate, remixate da Satoris Eleanort, la voce di Cecilia Biargo, già cantante degli Arcana, e il puntuale intervento al violino di Lady Knot, che per molti anni è stata in pianta stabile di questo progetto catalano. Non è un caso infatti che l'album è registrato tra la Catalogna e la Svezia, non a caso. Saluto Gianna dalla Puglia, affezionata anche lei, e naturalmente anche il medico della peste che non manca mai. Lasciamo Der Blaue Reiter, arriviamo qui in Italia. Loro sono i Father Murphy, che di tanto in tanto ritiriamo fuori, approfittando delle ottime produzioni di un'etichetta di Treviso che si chiama Boring Machines. Questo è il terzo lavoro del 2008 dal nome And He Told Us to Turn to the Sun. Questa sera ci ascoltiamo I Ran Out of Fuel and a Viper Just Bit Me, So Now You Have to Choose Between My Two Black Slunks and Never Forget You Have a Choice. Titoli molto lunghi, rapportati alla brevità delle tracce, infatti ce ne ascoltiamo ben tre. Little thoughts, fingering portion of history. you don't sell history as that, sounding a little desperate. Why you are the one we do aim at. We sell death in little parts, fingering portion of history you never digest. You don't sell history as that, sounding a little desperate. Why you are the one we do aim at. We sell death in little parts, fingering portion of history you never digest. You don't sell history as that, sounding a little desperate. Why you are the one we do aim at. Lucia, bontà sua, ci ha messo anche una farfalla, io ne ho aggiunto una più psichedelica. Rende l'idea il battito di farfalla, come rende l'idea, secondo me, il riferimento che ci può stare nella musica di Father Murphy. Lo si può anche trovare nelle primissime cose di Syd Barrett, oltre che il kraut rock, oltre che il ritualismo sacrale, per un progetto probabilmente non più esistente. Questo era il terzo lavoro, appunto, And He Who Told Us to Turn to the Sun, della Boring Machine, gloriosissima etichetta di Treviso, della quale più avanti avremo anche un altro artista. Adesso scendiamo più a sud, scendiamo a Napoli e scendiamo da Raffaele Pezzella, che ci ha deliziato queste settimane e lo farà anche questa sera con il suo ultimo lavoro, Phantoms. Uno dei passaggi migliori della carriera di Sonologist, costellata da molti molti dischi interessanti, ma qui in questo Phantom credo sia una delle pagine migliori proprio di questo artista campano. Questa sera è il turno di Codified e North-South Crossing. Thank you. una delle personalità più importanti e geniali degli ultimi anni, un vero e proprio gota della musica sperimentale italiana. Sto parlando di Raffaele Pezzella, in questo caso come sonologist. E come un vino invecchiando, tra virgolette, migliora sempre il nostro Raffaele, e ci regala questo Phantoms, uno splendido lavoro, uno dei migliori di questo 2019, oserei dire, che naturalmente esce per la Nesplay Sounds label. Antonio Zoviet fa un paragone importante che io mi sento di condividere, nel senso che come genialità il paragone con Nars Whitwound regge veramente. E io Raffaele lo ringrazio anche perché da quando, ormai sono parecchi anni, non mi ricordo esattamente da quanto, ma sono molti anni che abbiamo iniziato questa collaborazione a distanza, il programma stesso ha subito una marcia in più molto importante. Quindi Phantoms ve lo consiglio caldamente. Ricordo, siamo qui a Radio Onda Rossa, sono già le 21.44, 87.9 in modulazione di frequenza e naturalmente sul sito internet che è www.ondarossa.info. Un streaming anche questa sera molto frequentato, io ringrazio tutti quelli all'ascolto. Rimaniamo in Italia e torniamo alla Boring Machine, andiamo a conoscere un artista fino adesso direi trascurato da questi spazi, si chiama Von Tesla. Von Tesla è un musicista marcogiotto che proviene, credo proprio anche lui, da Treviso come l'etichetta. E di lui andiamo a rispolverare uno dei lavori di esordio di Von Tesla, Raised by Clear Acid del 2013. Sentirete come il suono alterna tra Dark Ambient e IDM di scuola Autechre, quindi una scuola che da queste parti è assai popolare, che io e anche chi sta ascoltando, molti di voi apprezzerete. Allora, questa che sta per partire si chiama N3, poi Understanding of Gravity, The Sitter Space e poi I Cycle Lost. abbiamo cominciato a conoscere ed apprezzare di conseguenza Fontes, la musicista proveniente dal Veneto, da Treviso. Al suo attivo 4 album più qualche singolo, qualche EP, tra cui questo Raised by Clear Acid, effettivamente acidognolo per certi aspetti, ma per altri glaciale, della scuola cosmica Tangerine Dream per esempio, fino ad arrivare agli Autechre, tanto per citare nomi assai famosi. Non è un caso che per esempio il buon Nicola Locci come Hexagonal possa apprezzare tale arte, già che anche lui è un ottimo artista di suoni spezzati che in parte si rifanno a queste strutture armoniche. Lasciamo per un po' l'Italia, ce ne andiamo di nuovo in Spagna, questa volta a Madrid come i Dasein, e finiamo di conoscerli, le ultime tre tracce del loro lavoro, Mirror Touch, secondo lavoro del 2019. Mirror Touch esce naturalmente per Galaccorro, che ultimamente abbiamo un po' riapprezzato attraverso loro, attraverso Earth Uning, aspettando poi nuove uscite, per esempio di November Novel, Taus Rafna, eccetera, eccetera. Allora, sta per partire dunque Mirror Touch, proprio la title track, poi Bones e la conclusiva X.